și cambiera qui da noi, ma non so dire ancora perché. Sarà ottobre quando il vento cambierà, mentre la neve viene con fiocchi grandi. Scenderemo in strada vestiti d'utopia. Ottobre va e la neve ancora cade giù, è freddo dentro, dentro l'anima. Non era un bel domani là davanti a noi, soltanto un altro zaino. Stessa arroganza come sempre, ma i nostri sogni gridano ancora, sono gli stessi di quell'ottobre laggiù. Ma non so dire quando sarà.